Escape from Mars. Questa è la partenza, ombra al beat. Finalmente ci siamo, questo è il disco che siamo qua, vai. Vai, stay. Speri che tu ci serva, ma produci merda e cantonate. Le tue strofe cruciverba, già le accantonate. Do rime blasonate come pietre incastonate, che le tue tre pastorate le prendono a bastonate. La merda le incassorrate in cambiali dilazionate, finché ogni palazzo cade sommerso dalle bollette, finché l'ossigeno lo compri in dosi razionate, finché pure il papa verrà sorpreso con le donnette. Io sul mio rap non mento, sono l'unico discepolo, ma il tuo fra più lo sento, più lo giudico ridicolo. Pensi che non la chiudo? Non fossi del mio secolo, ad occhio e croce dal tuo flow saresti un cavernicolo. Io porto voce, questo show continua e dallo stimolo. Ogni morto in croce dopo un po' cammina più carnivoro. Appunto il mio cammino ed ho raggiunto l'arrivo, stop. Vaffanculo in Transiberiana fino a Vladivostok.